Ci siamo mai chiesti, noi ce lo chiediamo sempre qualche volta, che cosa siamo? Io che cosa sono? Per sempre insieme a te ripenserò.